E ora. Legge Tasso. Secondo me, gli italiani e l'Italia hanno sempre avuto un rapporto conflittuale. Ma la colpa non è certo dell'Italia, ma degli italiani, che sono sempre stati un popolo indisciplinato, individualista, se vogliamo anche un po' anarchico e ribelle, e troppo spesso cialtrone. Secondo me gli italiani non si sentono per niente italiani, ma quando vanno all'estero li riconoscono subito. Secondo me gli italiani sono cattolici e laici, ma anche ai più laici piace la benedizione del Papa. Non si sa mai. Secondo me gli italiani sono poco aggiornati e un po' confusi perché non leggono i giornali. Figuriamoci se li leggessero. Secondo me non è vero che gli italiani sono antifemministi. Per loro la donna è troppo importante. Specialmente la mamma. Secondo me gli italiani hanno sempre avuto come modello i russi e gli americani. Ecco come va a finire quando si frequentano le cattive compagnie. Secondo me gli italiani sentono che lo Stato gli vuol bene, anche perché non li lascia mai soli. Secondo me gli italiani sono più intelligenti degli svizzeri. Ma se si guarda il reddito medio pro capite della Svizzera, viene il sospetto che sarebbe meglio essere un po' più scemi. Secondo me gli italiani sono tutti dei grandi amatori. Peccato che nessuna moglie italiana se ne sia accorta. Secondo me gli italiani al bar sono tutti dei grandi statisti, ma quando vanno in Parlamento sono tutti statisti da bar. Secondo me un italiano, quando incontro uno che la pensa come lui, fa un partito. In due è già maggioranza. Secondo me gli italiani sono i maggiori acquirenti di telefonini. E non è vero che tutti quelli che hanno il telefonino sono imbecilli. È che tutti gli imbecilli hanno il telefonino. Secondo me gli italiani non sono affatto orgogliosi di essere italiani. E questo è grave. Gli altri sono invece orgogliosi di essere inglesi, tedeschi, francesi e anche americani. E questo è gravissimo. Gli italiani. Popolo di combattenti, l'ha detto Giosuè Carducci. Italiani, popolo di pensatori, l'ha detto Benedetto Croce. Italiani, popolo di eroi, l'ha detto Gabriele D'Annunzio. Italiani, popolo di sognatori, l'ha detto Gigi Marzullo. Secondo me l'Italia e l'Italia hanno sempre avuto un rapporto conflittuale. Ma la colpa non è certo degli italiani, ma dell'Italia, che ha sempre avuto dei governi con uomini incapaci, deboli, arroganti, opportunisti, troppo spesso ladri e a volte addirittura assassini. Eppure gli italiani, non si sa con quale miracolo, sono riusciti a rendere questo paese accettabile, vivibile, addirittura allegro. Bah, complimenti. Secondo me gli italiani. Giorgio Gaber. A letto, Tasso.